America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. I think it's ridiculous. I think it's just another excuse. I don't believe it. There's great confusion. Donald Trump a Fox News, la sua dichiarazione è molto chiara, contesta la tesi della CIA, della CIA, secondo cui i russi avrebbero davvero hackerato il computer del Partito Democratico per cercare di aiutare Trump a vincere le elezioni. Diciamo che le notizie arrivano soprattutto dal Washington Post attraverso fonti per ora riservate, non abbiamo conferme ufficiali, ma hanno creato molto scompiglio a Washington perché i russi avrebbero sia hackerato le email dei repubblicani che quelle dei democratici, però mentre quelle dei democratici, mi ricordo molto chiaramente alcune email di John Podesta, per esempio, abbastanza imbarazzanti, che hanno messo sulla difensiva la campagna di Hillary e hanno aiutato sicuramente la campagna di Trump, sono state rese note, mentre invece le email intercettate sui computer repubblicani non sono mai state pubblicizzate. La tesi dunque è che i russi cercavano di aiutare Donald Trump a vincere le elezioni contro Hillary Clinton. Non abbiamo naturalmente nulla di più, sono soltanto indiscrezioni, ma il fatto che Trump esca allo scoperto in modo così chiaro contro quello che sembra essere un credibile rapporto della CIA, è significativo perché la sua amministrazione andrà a guidare la CIA. Ed esattamente Trump, riferendosi appunto alla tesi del complotto da parte russa per aiutarlo a vincere queste elezioni, dice: è una tesi ridicola, non ci credo assolutamente, nessuno può sapere veramente quello che è successo. Quando c'è un'azione degli hacker, o li prendi in flagrante oppure non scoprirai mai chi è stato. Potrebbe essere stata la Russia, la Cina oppure qualcun altro. Ecco, questo è uno degli aspetti più interessanti, perché che un presidente eletto americano non si trovi d'accordo con i risultati di una delle agenzie governative più rispettate non soltanto negli Stati Uniti ma al mondo è naturalmente un fatto nuovo, tanto più che autorevoli repubblicani come i senatori John McCain e Lindsey Graham si sono uniti, diciamo, alla tesi del complotto, hanno chiesto che i documenti vengano resi pubblici, hanno firmato un comunicato bipartisan anche con il senatore Chuck Schumer, che sarà il prossimo capo della minoranza democratica al Senato. Jack Reed, altro importante esponente democratico al Senato nella commissione servizi armati, dice: questo non può diventare un argomento di parte, il rischio è troppo elevato per il nostro paese. Well, in his case he's much more than a business executive. I mean, he's a world class player. To me a great advantage is he knows many of the players. Ecco, c'è un altro aspetto interessante in questa storia. Rex Tillerson, amministratore delegato della Exxon, dovrebbe essere il prescelto per la carica a segretario di Stato. E Trump dice: è il capo di una compagnia petrolifera che praticamente vale il doppio del suo concorrente più vicino. Per me questo è un grosso vantaggio, non tanto per la dimensione, ma perché conosce molti dei protagonisti dello scenario mondiale, molti dei politici, dei ministri, dei presidenti del Consiglio, e li conosce bene. Fa, per esempio, grossi affari con la Russia. Ecco, questo è il punto. Tillerson è molto amico di Putin, ha ricevuto dei premi da Mosca e da Putin, c'è un rapporto collegiale e dunque da una parte questo potrebbe dire molto bene, perché cercare di allentare la tensione con la Russia è sicuramente una delle priorità non soltanto di Trump ma un po' di tutti in Occidente, e d'altra parte la Russia ha anche fatto quello che ha fatto, ha violato le normative internazionali, ha occupato il territorio di un altro paese e adesso sembra che abbia interferito con le elezioni americane. Insomma, la vicenda è sicuramente molto interessante e molto complessa. Sarà una delle vicende che seguiremo nei prossimi giorni insieme a un paio di altri sviluppi importanti. La Fed mercoledì 14 dicembre quasi certamente aumenterà, anzi direi sicuramente aumenterà i tassi interbancari da una forbice dello 0,25-0,50 allo 0,50-0,75%. Infine, giovedì ci sarà una conferenza stampa di Donald Trump, la prima vera conferenza stampa del presidente eletto, in cui annuncerà come affiderà ai suoi figli la gestione del suo patrimonio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Direi viviamo in un'atmosfera di sospetto. C'è chi dice che Trump possa essere, come dire, chiudere un occhio oppure l'altro nel momento in cui la CIA dice che ci sono state delle violazioni dei segreti dei partiti americani. Entriamo nello spazio dello spionaggio, dei ciberattacchi, in cui vale tutto, in cui tutto è vero e tutto è finto, un gioco continuo di specchi. E dunque, nel momento in cui ci riavviciniamo all'idea della guerra fredda, vi propongo un classico degli anni 60, una canzone di Johnny Rivers, Secret Agent Man, l'uomo che è un agente segreto. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.